se accade qualcosa di bello bevete per festeggiare, se qualcosa di brutto per dimenticare. Quando poi niente accade voi bevete per farlo accadere. Non lo posso più sostenere perché il vostro saper bere è l'esatto contrario del saper bere. Ma no, bere non basta, questa è la serata giusta. A tuo avviso anche per una pista, se fortuna una pasta. Ma che hai in testa? Giusto, scarsa serotonina, perché l'MD la rende bassa come le Q di una cassa. La successiva mattina t'attira la cheta come una bambina, una bambolina di seta. La bamba fermi di non averla provata e poi smascelli con occhiali scuri anche in tarda serata. La realtà è che le potenzialità della mente umana ci permetterebbero ben oltre che questa merdata. Siamo vittime della società che con la sua colta coltre d'onde ci addestra e tempesta in maniera studiata. Ci addestra e tempesta in maniera studiata. Ci addestra e tempesta in maniera studiata.